questo gruppo rimesato da iconoclasti è il miglior gruppo degli ultimi 700 anni. Connessione funesta, più dell'ira di Achille, musica più molesta, qui facciamo scintille, lo sai, non ce n'è se la si mette sul rap. Messina, stile iconoclasta, viaggia sopra il boom bap. Non siamo figli di 8 Mile o dell'hype che c'è adesso, da fine 90 con una beat porta un flesso, si trascina avanti una storia tra alti e bassi, satura schiaccia sassi come da prassi. E sono 10 anni pieni che il rap mi ha plagiato, assuefatto in vena e l'effetto desiderato. Siciliano, Messana, My Town come Nino, birraccio in mano e tra le labbra uno spino. Peppe Cirino che stende il tappeto, Rade tra Mamman firmano il nuovo decreto. Micro e cuffie non DJ, schiaccia play, Iconoclasta torna in auge nel 2006. 2007 stiamo dentro come Provenzano, canto zero cash nella mano, tanto se c'hai soldi e bei vestiti, poi ti scopri travestiti come Lapo e Calissano. Stecche che spacciamo, so questa rimetti giù, Rochella amo, ti sposi una sgualdrina che ti smerda con Malvano. Questa è la mia storia che non cambia traiettoria come un aeroplano in mano a un talebano. Rap il nostro ramo, qua ce la sappiamo, lunga come la minchia di un nano. Me la suono americano mentre vivo da italiano, questo mondo è troppo strano nel posto dove viviamo. Sai, conta la tua scienza se rispondi alla domanda, solo la tua provenienza oppure chi ti raccomanda, chi ti manda, chi è tua mamma, se la gallina pianta. No, io vengo dalla strada e rubo le auto con Buzzanca. Andiamo!